al lumicino con andea un cammino sol più chiare delle divini volendo arro bronzo muro roccia di ostinata tua capoccia sol venturi delle divini volendo dunque fa saluta tutti barca i monti dalle flutti dalla larga dalle divini volendo Gioie come queste, ma tu vedi come novinelli e giù teste, e giù teste, e giù teste, l'anno del nuovo amore sei, ma del cane fu malato, e l'anno ancora sai venire, sole della mia, con gli orecchini come campanelli, a l'amore chiese tutto il capitano e il pietano e il principe e kirghisi uccisi, uccisi, uccisi, uccisi e il tartaro dall'arco di sei comiti di ricche felicito estinto, estinto e decapita uccisi, uccisi, uccisi, uccisi, uccisi Uccidi in farmazzo. Thank you.